Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori. Enzo e Marcello questa sera non sono insieme per la consueta puntata di Piazza Alta. Non so se Enzo in questo momento mi può sentire. Enzo, mi senti? Senti Marcello? Sì, ti sento. Vuoi dare tu lo stacco iniziale? Proviamo? Dai! Ora in onda Piazza Alta, un programma di e con Enzo e Marcello. Alla parte tecnica, Simone! One! E buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio F di Piazza Alta. Questo venerdì 22 di gennaio è una puntata molto particolare, un po' diversa, anzi sicuramente molto diversa da quelle a cui siete abituati a partecipare, ad ascoltare, perché in studio stasera abbiamo un ospite di tutto riguardo e insieme con me negli studi di Radio F non c'è, al contrario delle altre volte, Enzo, che è praticamente una delle colonne portanti del programma. Perché? Perché Enzo è in missione, ma vi spiegherò tutto tra un poco. Buon ascolto dalle F frequenze. Justified, remember your past, take it to the white. You're justified, prove it. Se qualcuno avesse avuto ancora dei dubbi, questa fantastica canzone Rage Against the Machine, Killing in the Name, è stata scelta da Simone Oneone e ho saputo che è anche stata approvata dal nostro ospite di stasera. Era tratta dal disco Rage Against the Machine omonimo, edito dalla Epic Records. Bravo! Grazie Enzo, grazie! Ecco, avete sentito la voce fuori campo, Enzo, che normalmente è qui insieme a noi. Questa sera l'abbiamo mandato in missione perché Radio F si espande nell'etere, nell'aere tutto, 1, 2, 3, anche 5 volte e l'abbiamo mandato a testare sul campo se effettivamente tramite i nostri mezzi tecnologici il territorio italiano è coperto tutto. Questa sera Enzo dove sei? E infatti, buonasera a tutti. Io per capire se le nostre app funzionano in modo splendido sono voluto andare lontano e sono arrivato in Trentino Alto Adige. Per Dindirindina. Dindirindina, bravo. Sono Madonna di Campiglio e la nostra app funziona splendidamente. E questa cosa a me mi fa molto piacere per due motivi. Uno perché funziona, due perché sei lontano dallo studio. Ma vogliamo dire allora ai nostri amici come possono ascoltarci? Certo, il metodo tradizionale ovviamente sono le modulazioni di frequenza. 89.2 in FM, in streaming www.radiof.it e chiaramente scaricando la nostra app sia per Apple che per Android, come hai fatto giusto appunto tu. Esatto, e da qua ti sento forte e chiaro e sarò partecipe, anche se da distanza, di una trasmissione che si preannuncia straordinaria dal primo brano. Enzo, ci tengo perché, come tu ben sai, il nostro ospite di questa sera è, secondo me, non è chiaramente una scoperta fatta da noi oggi, ma l'ho un po' conosciuto, ci ho fatto due parole, 5 minuti prima della trasmissione, secondo me ci riserverà nel futuro delle grosse sorprese. E allora, infatti, guarda, che la mia gioia per essere in questo posto così bello è pari al rammarico di non poter essere lì con il tuo ospite, con il nostro ospite, che ho avuto la fortuna di conoscere qualche anno addietro. Incredibile, questo discorso che hai fatto torna anche, era veramente difficile. Allora, oltre ai modi con cui i nostri radioascoltatori ci possono, diciamo, percepire, voglio ricordare anche il profilo Facebook sia di Radio F che di Piazza Alta, il sito internet di Radio F e i canali YouTube, sempre Radio F e Piazza Alta. Per chi volesse avere un contatto diretto con noi al 392 49 00 800, può dire, come farei io chiaramente, se la musica che ha selezionato stasera Simone Oneone è di suo gradimento oppure bisogna cambiare un po' linea editoriale. E sappiamo anche quale sarebbe il tuo commento, tra l'altro. Io, ecco, sono un po' di parte in questo momento e vediamo che succede questa sera, perché non lo so, magari ci potrebbero essere, non ci saranno chiaramente nei modi e nei tempi in cui avevamo forse previsto, ma che succede? Ora, anche stasera! Attenzione, attenzione! Jubo Ungherelli, fiorentino, classe 1979, artista poliedrico emergente, scrittore, musicista, autore, umile e schivo ai limiti dell'antipatico, si definisce il più grande scrittore vivente, un fiume in piena, un'icona dei nostri tempi. La sua prima opera si porta avanti intitolandola Scritti post vitam, poi si guarda indietro e scrive Ieri eravamo vivi, dopo l'insostenibile leggerezza dell'essere, l'insostenibile periferia esistenziale. Questa sera a Piazza Alta! Thank you. Torniamo in studio con Wax Aci, con il titolo La Luz, disco di Ivy Trip del 2015. Bene, finalmente, Enzo, ci sei? Solo io riesco ad annunciarli meglio. Effettivamente sto rivalutando un po' il tuo savoir-faire, la tua dizione. Enzo, questa sera, secondo me, facciamo qualcosa di importante. Mettiamo una pietra miliare nella nostra storia della radiofonia. Perché abbiamo qui, sai benissimo, un artista, io l'ho definito emergente, ora sentiremo dalla sua viva voce se questo termine rispecchia un po' le sue aspettative. È qui con noi Ljubo Ungherelli. Buonasera, Ljubo. Ciao a tutti, alla moderazione. Ciao Enzo, io saluto te, la distanza ci costringe a urlare a tutti gli ascoltatori, FM, streaming, podcast, YouTube, chi più ne ha più ne metta, è un piacere. Beh, per quasi tutti. Grazie di aver accettato il nostro invito, Ljubo. Tu sei nella scheda. Il nostro impeccabile scheda, vorrei sottolineare e ringraziare. Lo farò presente alla regia. Confermo. Ti hanno definito un autore, uno scrittore, un cantante, un compositore. Vuoi dirci qualcosa di te? Ecco, benissimo. Direi che hai detto più o meno tutto, è che purtroppo abbiamo anche degli spazi da riempire, quindi dovrò dire qualcosa anch'io, evidentemente. La tipologia migliore di definizione che mi rappresenta è appunto, come recitano anche tutti i miei vari spazi sociali, Ljubo Ungherelli, più grande scrittore vivente. Ecco, diciamo, si parte da qui e poi si va anche toccando altre frange dell'arte, ecco, e altre cose. Scusa Ljubo, questa tua vena di umiltà è il frutto di un percorso, diciamo, zen? Un paio di anni in India? Più o meno, sì, delle carceri indiane. No, più che altro sì, c'è il famoso motto che dice che la modestia è la virtù dei bischeri, e io seguo questa cosa cercando di essere meno bischero, sono meno modesto anche. Però, insomma, io vi chiedo un po' di fiducia, io sono anche il maggior critico di me stesso, quindi in questo caso, se ve lo dico io, vi dovreste fidare. Ecco. È un po' il famoso motto, me la canto e me la suono. Guarda Marcello, che secondo me questa era la puntata più bella della storia di Piazza. E non solo perché non ci sono io in studio. E non solo perché sarà l'ultima, forse questa non ci troverà. Facciamolo dire chiaramente ai nostri radioascoltatori alla fine della puntata. Siate clementi, mi raccomando. Ugo, abbiamo detto nasci nel 1979. 1979. Erano già 3 anni che nell'etere Radio F mandava le sue onde, le sue onde sonore. Però nel 95 succede qualche cosa, sì. Hai avuto un'illuminazione. C'è stata questa illuminazione, io la racconto più che volentieri, anche perché così è sempre, sono sempre cose buone che perché è sempre bene ricordarsi da dove si viene. Esatto, da dove si viene e dove si va, e anche da ricordare cosa fluttua nell'aereo. Nel 1995, abbiamo detto, sì, nasce questa mia vena in seguito a un episodio che mi ha portato a leggere un libro di James Joyce, un'antologia di sue varie opere. Chiaramente era il primo che leggevi in tutta la tua vita. Era il mio. Se ti ha fulminato così. Esattamente, e poi giustamente, ognuno inizia un po' come d'altronde, prima ero a 15enne, 16enne, avevo ancora giornali porno e cose del genere, non è che potessi andare a cose troppo elevate. E questo, se mai Enzo, magari in separata sede vi potete anche. È un cultore, vero? Sì, potrei fare una serie di puntate. Ecco, benissimo, io mi candido per la. Ma stasera il protagonista sei tu. Sì, io e non le mie letture. Trovi questo libro che ti apre la mente. Sì, questa edizione è commentata e che praticamente trovava in appendice tutta una serie di nomi di personaggi di tutti i vari racconti e romanzi che erano inclusi in quell'edizione, e diceva questo Joyce per fare questo personaggio si è ispirato a questa persona qui. Joyce è venuto, io ho detto cavolo, questo a raccontare i fatti suoi e dei suoi amici e dei suoi parenti è diventato uno dei più grandi scrittori della storia, devo farlo anch'io, posso benissimo farlo anch'io. Questo era il mio pensiero a 16 anni e ora sono passati 21. Non è che, cioè, più o meno il mio contatto alla realtà è rimasto simile, ecco, quindi credo ancora a questa cosa. Però se mi permetti, Dubo, questo concetto di dire se lo può fare lui, e lo posso fare anch'io, è una cosa bellissima, che è segno di progresso proprio, guardare, rubare con gli occhi e rubare mi sembra un ottimo termine, hai trovato e tra virgolette, però ti mette appunto in contatto con la realtà e ti dimostra, ti mette in rapporto anche con le tue capacità. E capisci che il contatto con la realtà non si sa se tu ce l'abbia granché oppure no, però in effetti uno dice mi cimento e ho iniziato a cimentare. E in effetti il dubbio di stasera che vorremmo un po' sfatare è se appunto uno è un dissociato o meno. Ecco. Non so se sei d'accordo. io temo di la risposta, non so Lienzo da Cortina di Campiglio. Inizia questa strada della narrativa praticamente. Mi butto a testa bassa. Prego. Ma non andiamo oltre, perché io avrei da fare una domanda intelligente. Però lasciamo fare. Ascoltare, non ci interessa. Vogliamo ascoltare un po' di musica prima di addentrarci nei meandri e nel buio che magari troviamo all'interno di Yubo? Anche per preparare gli ascoltatori a una domanda intelligente mia, che non è cosa da tutti i giorni. Ecco, insomma. Allora ci rivediamo tra 7 minuti, il tempo di fare di ascoltare la canzone, e 2 minuti di silenzio, che sono quelli di raccoglimento per la domanda intelligente. Buon ascolto. Just allow me in your club. Oh, allow me to drink from your cup. I'll be come back for more. Oh, allow me in your dream. Oh, allow me in your scene. Just allow me on your knees. I'll be come back for more. Keep on rising. My Baby, Uprising, Disco Shamanic. L'ho detto bene? Io direi di sì, anche perché non ho letto, non ho capito niente. Incredibilmente sì. Siamo in studio con un gradito ospite, Ljubo Ungaretti. Senti, quello ancora è... Io non so se il paragone può essere apprezzato dal nostro ospite, e chiaramente stasera devo fare tutto io, quindi è anche comprensibile. Ljubo, ho visto che hai un sito internet. Sì, hai visto bene. Che è www.ljubo.ungherelli.it, il mio sito ufficiale, che io ho visitato e ho molto apprezzato, perché all'interno del sito ci sono tutte quelle che sono le tue opere omnia, sì, vero. Ecco, le tue opere che hai pubblicato sì, nel tempo, da quando hai avuto questa folgorazione di cui sopra, sì, di cui esatto, sopra. E ci sono anche chiaramente le tue, diciamo, peculiarità anagrafiche, sì, dei riferimenti. Sì, c'è una biografia. Bene, vorrei capire da te se, come inquadreresti la tua letteratura e se nel corso del tempo c'è stata anche un'evoluzione. Io mi sono fatto un'idea, però vorrei che tu mi dessi, diciamo, dalla tua viva voce, okay, la tua opinione. Benissimo. Dai un'opinione su te stesso. Questo mi è sempre semplice. Io poi sono, appunto, come avete visto, estremamente spietato e critico nei miei confronti. Quindi, diciamo che in questi 21 anni ormai, questo, siamo entrati nella terza decade della mia storia di scrittore, c'è una costante evoluzione. E se avete presente il famoso modo di dire anche di calcistica memoria, squadra che vince non si cambia, ecco, non è una cosa che fa per me. Io ho sempre cercato di andare oltre a tutti gli stilemi, magari anche funzionanti all'interno di quello che scrivevo, e cercare di fare cose diverse. Ecco, partiamo dalle prime cose, che sono appunto all'insegna di tematiche più introspettive, io mi spingerei a definirle così, dopo averle analizzate in questi scritti, riscritte e rilette. E pian piano c'è tutta una parabola evolutiva che va verso quella che appunto anche nella scheda della redazione veniva appropriatamente definita periferia esistenziale. Ecco, Ljubo, ho proprio una domanda a questo proposito. Ecco. Periferia esistenziale, che cosa significa? Diciamo, è ai bordi, cioè presa letteralmente, ai bordi un po' dell'esistenza, del quotidiano, o ha un altro tipo di significato? Questa era la mia domanda intelligente, vorrei terrei. Mi scuso tanto, Enzo, non era l'unica domanda che mi ero preparato. Dopo ti chiamo e te ne do un'altra delle mie, dai. Tra l'altro, se mi permetti, nato ai bordi, pensavo tu dicessi di periferia. Ma vabbè. Lasciamo rispondere. E qual era la domanda? Sì, il concetto di periferia esistenziale, mi pare che sia stato chiesto con mia grande gioia. Sì, è più o meno è quello che avete appena sviscerato. È questo dualismo tra gli scenari suburbani, proprio fisici, l'ambientazione, il teatro di queste prime opere che io ho scritto all'inizio degli anni 2000, proprio nella desolazione proprio di questi scenari, palazzoni, queste cose qui, che insomma... Ecco, ma la tristezza era più di quello che ti circondava o era più dentro di te? È una simbiosi, io non so quale delle due cose sia soverchiante sull'altra. Diciamo che la periferia esistenziale è questa condizione di chi ci vive dentro, come me, io abito in questo genere di periferia reale, più o meno da quando sono nato e tuttora risiedo. Se vuoi un posto in campagna te lo troviamo. Se sotto un ponte forse. Sì, no, vabbè, una cuba. No, ma sai, che do di questo passo, sai, io... dico una Leopoldina. Da ristrutturare. Sì. Troppo buoni. E ci penso io. No, mi raccomando, io aspetto fiducioso proposte, tanto è... Insomma, diciamo, ecco, da qui inizia questo... Scusa, Enzo? No, dicevo, volevo ringraziare Liubo che conosco ormai da qualche anno e per me potrebbe già bastare così, perché soverchiante in trasmissione non l'aveva ancora mai detto nessuno. Ok, allora io vi ringrazio e riparto felice, insomma, con mezz'ora di anticipo, ma comunque felice di aver dato questo mio contributo alla causa. Un grosso contributo. Quindi Grazie. Inizia questo percorso, questo cammino, esatto. Sia interiore che esteriore, diciamo. Che, sì. E dove ci porta? Che passa, cioè che itinerario percorre? Allora, l'itinerario che percorre parte appunto da questi primi romanzi che sono molto elaborati e molto complessi, che richiamano la tradizione del romanzo classico di 800 e seconda metà 800 e prima metà del 900, e si crea questa prosa. Era la scrittura in quel tempo? No, non ne sono al corrente. Non lo so, io sai, sono nato nel 1979. Quindi l'hai presa per sentito dire, esatto. Cioè, non è che sta lì, ma si parla delle frasi fatte, la grande letteratura dell'800, poi insomma, chiaro, non c'eravamo. Cioè, non sta a noi andare a verificare, sì, ma effettivamente la scrittura a quel tempo esisteva veramente. Sì, cioè, come c'era internet a quell'epoca, ci sarà stata anche la scrittura, cioè, il bidet, queste cose, ma insomma, fondamentali, l'esistenza, la chitarra elettrica, eccetera. E quindi da lì siamo partiti e pian piano siamo andati a prosciugare questa, ho detto, mi sono stancato molto presto di tutta questa opulenza di questa prosa. L'opulenza è rimasta solo fisicamente nella circonferenza adiposa, che è la cosa che mi precede, solo la mia fama, esatto. Ecco, le ultime otto parole messe insieme non l'ho capite, mi riascolto la puntata. Okay, separata sede, riascolteremo, siamo fiduciosi di ciò e quindi fondamentalmente io direi che questo ci porta verso un meraviglioso passaggio musicale. Sì, però prima di far partire... Lupo ormai fa anche la conduzione. No, ma vedi, prima di fare questo voglio invitare i nostri ascoltatori ad ascoltare bene questa canzone, perché dopo diremo che valore ha, perché ha un valore fondamentale. Simpatici amici. Come non è che ti sei, che non sto cazzo di lei, il tuo progetto fa famiglia italiana. Tu e tuoi bambini che ciò che non la strada. Voglio di più, voglio di più. L'imperio neo, fuggire dalla terra. Voglio di più, voglio di più. L'imperio neo, fuggire dalla terra. Ritmo tribale e base luna, ci siamo ascoltati questo pezzo tratto da Cycle Sonica del 1995, tutto a posto, tutto come sempre. Come e perché è importante quello che abbiamo ascoltato? Perché con Progetto Idioma, che è un gruppo rock di cui tu hai fatto parte, oltre ad essere un grande scrittore ti sei anche riciclato, diciamo espresso a massimi livelli, come abbiamo potuto sentire in questo momento con la musica. Con la musica, esatto. Il tuo ruolo in questo caso, cosa stavi facendo? In quel periodo, che parte nel 2010 e arriva fino a circa il 2012, mi sono occupato di traslare dei pezzi, dei brani di miei romanzi, raccogliere quattro personaggi che suonavano per me, perché io non avevo minimamente idea di dove andare a parare, e declamare questi testi sotto questo sottofondo molto sordido e distorto di rock ossessivo compulsivo. E vedi, questo vedi che tutto si spiega, Simone. Ossessivo compulsivo. Ma io già sapevo. No, il problema è che lui ha già fatto un percorso e forse è arrivato quasi a vedere la luce. La frutta, sì. Tu non sei nemmeno partito e continui a mettere musica di questo genere in radio. Ma io in realtà di quel progetto facevo in parte, ero... Ah, è vero, perché la parte, diciamo, video l'hai curata spesso. Abbiamo avuto un regista di riferimento che è qui. Ma dillo anche a lui, non solo a me, dillo anche a lui. Che ha creato, no, a chi lo devo dire? Io lo dico agli ascoltatori, che a lui e a me, io parlo al popolo e al mondo. No, cioè, perché Maggi non ci crede. Ma alle cuffie, quindi mi sente, non ti preoccupare. Sì, sì. No, ci credo, ma la cosa che mi stupisce di più e al quale non mi adatto ancora è conoscere persone con una carica artistica di così elevata caratura. E quindi sono sempre stupito e ho sempre questo... Cioè hai avuto queste persone in casa e non te ne sei mai reso. E per fortuna ho cercato sempre di evitarle. Purtroppo ogni tanto si viene a contatto. Bene, quindi... Io rimango esterrefatto da queste prestazioni che anche il nostro Simone One ha fatto nel tempo, che noi ignoravamo praticamente. Vedi, infatti, c'era un motivo per cui venivano sottaciute. Noi ne siamo tutti felici. Questo abbiamo delle, insomma, sono rimaste prove testificate che potete trovare ovunque online su YouTube. Fate una ricerca sul Progetto Idioma e trovate. Ecco, questo progetto poi è arrivato a conclusione. O si è interrotto? I finanziamenti non sono arrivati. È finito o è terminato? Non lo so. Sì, allora, diciamo può essere solo rimandato. Diciamo che ci sono dei cicli che si aprono e a un certo punto si chiudono, anche naturalmente, senza essere, quando senti che hai espresso tutto quello che avevi da esprimere più o meno, almeno per me era così, e dici cerchi di voltare pagina e casualmente dopo questo progetto veniva all'interno di una mia pausa dagli affari letterari di 4 anni lunghissimi dove perché, non ho scritto niente. Eri anche stancato, quindi ti sei dovuto riposare. Esatto, e mi sono riposato con questo progetto musicale e da lì è tornata anche la scrittura e dal 2012 siamo ritornati in ballo, è arrivato il mio sito e tra l'altro saluto anche il mio webmaster che ha fatto parte di questo gruppo Progetto Idioma e Padre Voodoo Design e deve essere lì da qualche parte all'ascolto e ti voglio un gran bene e continua a gestire il sito da par tuo. Chiaramente essendo un percorso zen come potevano chiamarsi Master Chef e esatto, Commander esattamente. il web design giustamente. Ecco, a questo punto diciamo della nostra trasmissione ma soprattutto della tua vita artistica, Lupo, a che punto siamo? Siamo a un punto dove praticamente il concetto di giovane scrittore si sta pian piano esaurendo perché c'è questa cosa, questa convenzione. Ti vedo un po' dagli occhi, Vero, si stanno chiudendo, spegnendosi e si dice che il giovane scrittore dura, va avanti, esiste fino a 40 anni e quindi io sono a questo punto qui, ho ancora delle cartucce da sparare da giovane scrittore e da scrittore in generale, quindi mi proporrei finché ci sono cose belle da dire di continuare a dirle. Ecco, io volevo capire questa cosa, ecco. Diciamo, io ti ho definito come uno scrittore emergente, un artista emergente, sì. Ma effettivamente per emergere, per assurgere alla celebrità ed essere consacrati, che cosa manca, se manca qualche cosa, o se già sei, ritieni di essere arrivato, e in che cosa potresti, diciamo, che strada, che percorso dovresti percorrere per arrivare in cima alla vetta del successo e del riconoscimento? Parto da quest'ultima domanda perché la prima è abbastanza triste e preferisco non rispondere. Niente cose tristi stasera. Ecco appunto, infatti già siamo sullo già. Già ho visto Enzo come si è posto nella sua posizione. Non sappiamo, per fortuna sono cose che rimangono qui tra. Io rimarrei un pochino nel buio della sua cameretta. Nel buio della mente, vero? Sì. Parliamo di Lupo che è meglio. Ecco, parliamo di me che sto già dando abbondantemente quindi, strazio dicevamo, di me stesso. Dove siamo e dove stiamo andando? Allora, e forse ci arriviamo? No, perché alla fine se arrivi hai perso tutto lì. Cioè, no, ma il fatto è che devi comunque continuare a cercare. E se ti fermi poi dici sono arrivato non hai più stimoli né nulla. Cercare sempre di rimettersi in discussione, di cercare di fare cose interessanti e poi se c'è un pubblico che le riceve molto meglio, bene, non ci prendiamo in giro, io scrivo solo per se stesso, no, devi fare e cercare di arrivare a delle persone perché se no non ha quindi senso. Quindi sei sempre diventare. Ancora in evoluzione? In continua evoluzione, in continua ricerca di qualcosa, non sempre riesco a capire come bene. Una bevuta fredda. Cioè. Esatto, esattamente. E a proposito di ricerca, io ricercherei il prossimo brano che Simone... Sembra un'ottima idea. Simpatici grazie. Amici, vi lasciamo in compagnia di Simone Oneone. Dai. 1976. Come out, I wanna love you less. Come out now, I wanna love you less. Why don't you come out, I wanna love you less. Come out. Actually, I love you more. She ain't gonna feel no shame. No shame. She ain't gonna feel no shame. No more. She ain't gonna feel no shame. No shame. She ain't gonna feel no shame. Then she said again, come out. I wanna love you less. Come out now. I wanna love you less. Why don't you come out? You more. She ain't gonna feel no shame. No shame. She ain't gonna feel no shame. No more. She ain't gonna feel no shame. No shame. She ain't gonna feel no shame. Then she said again, come out. I wanna love you less. Come out now. I wanna love you less. Why don't you come out? I wanna love you. I love you more. Honeybird con Come Out dal disco Out Comes Woman, che è uscito lo scorso anno, circa un anno fa, e è un disco meraviglioso, per cui io mi prendo qualche periodo di tempo per fare un panegirico, perché insomma è una musicista che ora risiede a New York e sta facendo sempre grande musica. La salutiamo perché è sicuramente all'ascolto con quelle 6 ore di fuso orario rispetto a noi. E che hai conosciuto grazie a me, no? E che mi è stata veramente... Simone ha fatto da sensale in scout, eccetera. Questo disco ci ha aperto le porte al vivere bene la propria promiscuità sessuale. È una cosa che io consiglio a tutti sinceramente di approfondire, mi permetto di farlo con spregio del politically correct, e insomma io da una decina d'anni ho iniziato a vivere bene questa cosa e consiglio a tutti di esplorare. Ok, Enzo, eccomi, senti, sempre qua. Non ce la può fare. Affascinato. Forse non ho ponderato bene, non ho percepito bene il significato profondo di quest'ultimo intervento. Quest'ultimo silenzio di tomba che ci ha dato Enzo da Courmayeur. Ero assorto a Enzo, il fatto di essere in un luogo di sofferenza, di patimento, di non ti esime da ricordarci quelli che sono anche gli altri appuntamenti oltre Piazza Alta che stiamo vivendo in diretta in questo momento della settimana radiofonica. Certo. Allora, innanzitutto ricordiamo che sulla nostra pagina Facebook Piazza Alta troviamo l'appuntamento con Una serata da leone, dove Simone, che fa anche rima, ci consiglia dei film e ce li fa anche vedere. Mentre verso la fine della settimana ci sono i consigli per il weekend e vi diamo appuntamento alle varie manifestazioni, eventi che si tengono nelle nostre zone. Senza poi dimenticare ovviamente però che sulla pagina Facebook di Radio F ogni giorno ci sono eventi e cose che vengono sottolineate dai nostri colleghi, che mi perdoneranno se li chiamo colleghi, perché è chiaro. Capirai bene che non è giusto fare questo, ma se convenzionalmente diciamo così. Diciamo che la passione ci accomuna, i risultati e la qualità forse un po' meno. Ma chissà, perché forse domande, andiamo avanti. Filosofo sarà la presenza di lui in studio, ma anch'io mi sento un po' filosofeggiante. Sono contento. Sai, se mi permettete, aveva abbandonato l'impiego di ballerina spogliarellista in un locale per soli uomini molto prima che un calo del gradimento dei clienti inducesse il proprietario a privarsi delle sue prestazioni, facendo in seguito diversi lavori. Ora, perché, tra le varie cose che ho letto di te, che cosa la domanda ti faccio io, perché proprio questa? Ma c'è un significato profondo, ecco, okay. Non è soltanto quello ludico a cui poi magari maniera molto superficiale potrebbe pensare Enzo, anche quello, se ci sei fissato, ecco. Sì, sono fissato, però mi ha molto colpito questo fatto che ho tratto questo periodo, questo verso da una tua opera, si chiama Boom Boom, che mi vuoi ricordare dove è raccolta? È il racconto di apertura della raccolta Cacciatore di Betoniere del 2002, che trovate come tutte le altre opere liberamente scaricabili dal mio sito in PDF, senza registrazioni, senza niente, in Creative Commons, queste licenze libere. E perché mi ha colpito? Perché mi ha fatto un po' riflettere sul fatto che si parla chiaramente di una ballerina, fa la spogliarista, però il tempo che passa è inesorabile. Lei se ne è resa conto, diciamo, in anticipo, e prima che il tempo che passa inesorabile mostrasse i suoi effetti sul suo corpo di ballerina spogliarellista, ha preso decisioni diverse. Dove stai andando a parare? Quindi? Non lo so, mi piaceva questo fatto, lo sai perché? Ora, lo stavo chiedendo anch'io. No, è vero. Ma perché per un'esperienza che finisce, se ne apre subito un'altra che ci porta chissà dove. Ecco. E questo è, lo vorrei ricongiungere a, a quel discorso che facevi tu prima, dove fino a 40 anni sarai il più grande scrittore al mondo vivente in questo momento, e poi chissà che cosa ci riserverai e che cosa ci riserverà la tua vena artistica. Certo. Chissà che evoluzione. Enzo. No, io aspettavo una risposta da Lupo a questo panegirico. Ma ti dirò che in questa mia domanda mi sono ispirato ad un virgolettato di Giubo, il caleidoscopio dell'assurdo. Il caleidoscopio dell'assurdo, e dove ci porta adesso la mia nuova vena artistica? Il caleidoscopio dell'assurdo. Sono situazioni dove ho totalmente perso interesse per l'attinenza realistica delle storie, e dal 2012 in poi mi sono reinventato queste storie molto più surreali e allucinanti, che adesso stanno procedendo verso dei progetti futuri a breve termine. Seguite i miei canali e saprete qualcosa in più, perché è questione di giorni. Infatti, Lupo, io volevo chiederti, abbiamo parlato di molte cose, avete parlato, e stasera più che conduttore mi sento ascoltatore protagonista, perché ogni tanto dico qualche parola. Volevo chiederti, ci puoi ricordare qualche titolo, qualche opera tua? Perché finora abbiamo parlato un po' in generale. In realtà, Enzo, sono molte, Sì, no, lo so. Quelle che hanno dato più soddisfazione a lui stesso, proprio a lui. Ma benissimo, almeno chi poi andrà sul sito a scaricare ha un minimo di infarinatura e sa di che morte può morire, insomma. Io vi consiglierei per il primo periodo in assoluto, Focolaio del Treno, periodo periferia esistenziale, periodo mattone, Focolaio del Treno è la cosa migliore di tutte. Poi abbiamo il romanzo della svolta bukowskiana, che è posta da filmare. Che non va fraintesa con quanto avevamo detto. ma infatti ci mancherebbe altro. E qui parte la corrente dello Scream of Consciousness, queste epifanie che creano degli episodi rivelatori che danno poi adito a tutta una serie di vicende lugubri e truci o ironiche, qualunque cosa. Io, Enzo, sono stupefatto della mia ignoranza. Io altrettanto, siamo in buona compagnia. Siamo arrivati a tanto, no? Faccio finta di autoconvincermi di ciò che mi state dicendo, quindi vado avanti imperterrito anche sfumando tutto il resto della trasmissione. Vi darei poi Galvanoterapia, vi darei Ali Bye Bye, e recentemente c'è questo Ieri Eravamo Vivi, che è un romanzo fondamentalmente pornografico che ho scritto lo scorso anno, e mi sono dato molta, molta gioia perciò. Perché dovevo farlo prima o poi. Questo è il tipico romanzo introspettivo. Esatto, è introspettivo, estrospettivo. E quindi fondamentalmente io sono ormai frequentatore di gentaglia e cose, ladri di appartamenti, gente che ingravida donne, mette a ferro fuoco ambienti. Questo almeno è quello che pensano i miei genitori di me, e siccome io ne sono orgoglioso non tendo a smentirli, anzi ribadisco. E quindi vi lascio alla musica con questa... E chiaramente... Il cappello sulle 23 a noi ci fa un baffo. Infatti, anche perché sono le 22:51, quindi fondamentalmente Eraldo Pecci si entra. Secondo me Marcello non vede l'ora che finisca la puntata per andare a leggere questo romanzo pornografico. Non per picchiarmi, no? No, assolutamente. Bene, che cosa dire di più? Io direi niente, perché anche troppo. Ci siamo già un po' inoltrati in un mondo chiaramente sconosciuto a me, sicuramente. Che è, diciamo, nuovo per te, come hai detto. Esatto, anche per me. Io la butterei un po' sulla musica, ti dico la verità. Se buttiamo. Musica un po' è quella grande livella che tra un intervento e una cavolata poi rimette un po' in equilibrio. L'ho buttato, come dicevo. Bravo! Follow me sitting by In Shame, No Excuses, Jero Fly del 1994, Columbia Pictures. Ljubo, grazie di questo intervento. Siamo già, diciamo, vediamo un po' la fine della trasmissione. Spero che tu ti sia trovato bene con noi. È stata come sempre meravigliosa e volata, e quindi io vi ringrazio. Sono contento che voi abbiate avuto questa ottima idea di trovare me come ospite. Ci sembrava il minimo, perché esatto. Diciamo, questa di stasera dovrebbe essere una prima, che prima chi però, meglio di me, esatto, quindi diciamo, io ribadisco, io mi candido anche per le prossime. Ecco, il problema sarà proprio questo, perché se vogliamo fare una serie di puntate sugli artisti emergenti toscani o comunque che possono avere attinenza, diciamo, alla copertura della di Radio F, delle magiche frequenze e degli innumerevoli mezzi di socializzazione, chiaramente sarai prossimamente il nostro ancora gradito ospite. Più che volentieri, io sì. Voi fate un fischio, datemi il tempo di... Ecco, l'importante è che so che hai in ponte qualche cosa di cui adesso non possiamo parlare, esatto. Perché contratti coperto milionari... dal segreto di Stato e ben remunerato, esatto. Esatto. Poi a tua insaputa, a un certo punto, potrai anche rivelarci quello che è la tua ultima produzione. Esatto. Enzo, a questo punto noi ci troviamo nella condizione di dare gli appuntamenti, chiaramente, per la prossima settimana. Certo, certo. E non lo so, vuoi dire qualcosa a te? Non so, sì, sicuramente sei al freddo in un posto, in un tugurio, a Madonna di Campiglio. Sì, io ti sento. Ecco, perfetto, sì. Dunque, io sono qui sacrificato, però vi confermo che l'app si sente benissimo anche in Trentino Alto Adige, a 1500 metri di altezza, con un freddo boia. E gli appuntamenti per la prossima settimana, io non so dove sarò ad ascoltare l'app di Radio F, ma comunque da qualche parte sarò. Ma ti sostituisco io, vai tranquillo, ci sono io qua, grazie, ho messo le tende. Grazie Lugo, molto bene. E gli appuntamenti sono appunto per la settimana prossima, sempre alle ore 22, su Piazza Alta, su Radio F con Piazza Alta, e domani, grande sabato di Radio F immancabile, ecco, il weekend poi prosegue con lo sport. Ci tengo, dalle 8 di mattina senza soluzione di continuità fino a tarda sera. Esatto. Il sabato di Radio F è uno di quelli che è immancabili negli impegni, negli appuntamenti della settimana. E poi con tutta la programmazione di tutta la settimana prossima. Noi diamo appuntamento invece A venerdì prossimo parleremo, naturalmente, dico naturalmente perché il periodo è questo, del carnevale. E quale miglior carnevale se non quello di Foiano? Bene, non penso che ci siano altri argomenti di cui alla stragrande. No, no, ma dici, tu conosci il carnevale. Chi meglio di me potrebbe parlarvi del carnevale, quindi io sarò lì con voi. E... chiaramente non per la conoscenza, quanto perché te riusciresti ad elaborare dei concetti, sì, che nessun altro... senso, però comunque pertinenti al discorso, perché io riesco a valigiare con un senso. Sono abbacinato dal caleidoscopio dell'assurdo, esatto. Quindi seguitelo tutti, www.gliovongarelli.it, pagina Facebook, Pio Vongarelli, più grande scrittore vivente, scaricate tutto, seguite e avrete belle notizie. Grazie veramente a voi e vi lascio ai saluti perché vi voglio bene. Gentili radioascoltatori, stasera è toccata a noi. Bene, però l'appuntamento lo ha ripetuto Enzo e io mi associo, voglio salutare Simone One, ciao a tutti, che ha curato la parte tecnica e la pazienza, chiaro. E niente, vai con la sigla finale. Avete ascoltato Cazzarta, programma di e con Enzo e Marcello. Alla parte tecnica, Simone. Une. A vederci prossimo. Buonasera. Adesso che ti vuoi, non devi fare niente che non vuoi. Il cuore non ci sta in una scatola, e tanto meno.